Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, buona domenica, soprattutto benvenuti a Magazine 24, puntata numero 2 della settimana. Come sapete, andiamo in onda il sabato e la domenica, sempre con la rassegna stampa dei settimanali, ma diciamo poi anche dei mensili, di tutto ciò che può essere di non stampa quotidiana e per la quale vi segnaliamo gli spunti più interessanti, gli articoli curiosi, utili da leggere in qualche modo. Voglio cominciare questa mattina con una cosa decisamente inconsueta, poiché ci sono, come sempre succede, sui magazine italiani e stranieri parecchi articoli dedicati alle donne. In particolare Newsweek questa settimana si è occupato di donne e leadership, quindi donne al potere, quote rosa, donne ministro, donne alla guida di governi, eccetera. Colpisce allora, un po', come dire, condizionati da questo grosso lavoro di Newsweek, quello che si trova anche su altri magazine, su altri settimanali, su altri periodici, sempre intorno al tema della occupazione femminile, dei lavori femminili. Ad esempio, un lavoro che forse non si immagina come propriamente femminile è quello della giocatrice di poker. Ho trovato questa notizia nelle news di Vanity Fair di questa settimana. Effettivamente non c'è nessun motivo perché una donna non debba essere giocatrice di poker, e infatti si racconta in una breve intervista raccolta da Francesco Esposito come Isabelle Mercier dichiari: uomo, ti vedo e ti frego al poker. È l'unica donna agli europei di Sanremo e spiega perché non crede al bluff della superiorità maschile. Naturalmente fa ampio uso di termini del gioco del poker, appunto, il gioco del poker che ha avuto con la diffusione, specialmente la sua versione telematica, la sua versione online, un successo insperato, un successo notevole proprio negli ultimi anni. Altro che sport da maschietti, l'esordio di questa intervista di Francesco Esposito: se il binomio donne gioco d'azzardo stupisce ancora qualcuno, per veder crollare gli ultimi stereotipi basta parlare con Isabelle Mercier. Isabelle Mercier è canadese, ha 35 anni, è l'unica professionista all'European Poker Tour di Sanremo, che è già in corso perché si concluderà il 21 di aprile. È il torneo più grande che viene giocato in Europa e la stessa Mercier dice: la verità è che il poker ha ingredienti molto femminili. Quali, per esempio, chiede Esposito, intuito, capacità di osservazione, analisi psicologica, doti più sviluppate nelle donne. Basta guardare alla vita di ogni giorno, questa la pacifica analisi della giocatrice. Inoltre la donna capisce subito se menti, questo potrebbe essere un avvertimento utile per noi maschi anche in altre situazioni della vita che non siano il tavolo da poker. Esposito non raccoglie però questo tipo di provocazione, chiede invece se è questo il motivo per cui il quale le giocatrici sono in vertiginoso aumento. Mercier naturalmente è d'accordo, dice anzi sorprende, mi sorprende che siano ancora così poche. Le cose stanno cambiando: nel 2004 noi professionisti eravamo solo l'1%, oggi siamo intorno al 5% e c'è una crescita esponenziale nell'online. Addirittura si calcola, e questo dato viene riferito da Vanity Fair, che nel 2011, quindi l'anno prossimo, un terzo del mercato del poker online sarà proprio fatto da donne. E quindi, per chi vuole cominciare, consiglia anche la Mercier la palestra migliore, anche giocando soldi finti. Lei di suo poi rivela di essere figlia d'arte in qualche modo, perché aveva appena 5 anni quando ha cominciato a giocare a poker. Il motivo è abbastanza semplice: suo padre era un giocatore, era, lo definisce lei, il miglior giocatore di Victoriaville nel Quebec, ogni settimana organizzava sfide familiari, quindi è stata una cosa naturale. Questa l'indicazione di un lavoro diciamo molto che non si immagina come propriamente femminile e che naturalmente invece ha anche le sue campionesse accanto ai suoi campioni. E allora lasciamo per un istante Vanity Fair. Vi dicevo di questo lavoro presentato da Newsweek in copertina, Le nuove rivoluzionarie, donne e leadership, perché sta crescendo la forza dei movimenti dissidenti femminili e femministi dall'Iran all'Afghanistan. Questo lo spunto di cronaca da cui parte Newsweek. Naturalmente si tratta di uno spunto, come dire, molto serio. anche l'articolo che apre questa serie di articoli del Newsweek ha un titolo estremamente chiaro, estremamente deciso. Sentitele ruggire. Dissidenti donne stanno riscrivendo le regole in paesi dove ancora non possono mostrare il loro volto. Quindi il ruggito in qualche modo di queste dissidenti, che rischiano anche parecchio naturalmente in stati dove la condizione femminile è tutt'altro che paritaria rispetto agli uomini, bene, è l'oggetto proprio del racconto di Newsweek che apre la rassegna della leadership al femminile. Vi leggo solo qualche brano. Dice: per le donne in Iraq presentarsi per una carica è un particolare rischio. La costituzione del paese, come quella di molte nazioni che sono poi sorte dai conflitti, da conflitti, da guerre, richiede che una parte di tutto il Parlamento sia occupata da donne, e tuttavia è ancora molto difficile, e il numero delle leader donne e di attiviste politiche è cresciuto solo negli ultimi anni, con notevoli rischi. In febbraio, ad esempio, una candidata è stata uccisa proprio in Iraq. Tuttavia continuano ancora la loro battaglia a sfidare appunto le tradizioni che vorrebbero invece le donne non impegnate in politica. D'altra parte, qui l'analisi si allarga un po' a tutto il mondo, non solo a questi paesi più in cui è più difficile fare attività politica per una donna. Nel mondo, nei paesi in via di sviluppo, le donne sono spesso molto più preparate rispetto a prima, e sono anche in grado di cogliere i cambiamenti che si affacciano velocemente. Ci sono ora ragazzi e ragazze in numero praticamente uguale nelle scuole, con incrementi notevoli in paesi come l'Iran, l'India, l'Egitto e la Cina. Quindi accedono agli studi più donne di quanto succedesse prima, e in alcuni paesi naturalmente questo guadagno è il risultato di politiche socialiste, di politiche comuniste che hanno mirato a un accesso egualitario, un accesso uguale all'istruzione, ma in altri paesi si è già più oltre. Ad esempio in Brasile, in Russia, negli stessi Emirati Arabi, le donne ormai rappresentano più del 60% dei laureati e dei diplomati, e quindi e quindi si prevede che le donne abbiano via via sempre una preparazione superiore e anche capacità di guadagno superiore. Nelle pagine seguenti, tra l'altro, Newsweek si occupa anche di quote rosa, perché in un articolo di Kim Campbell, che è stata il 19° primo ministro del Canada, la Campbell appunto sostiene che c'è una necessità di mantenere le quote rosa. Sapete, le quote rosa sono quelle norme in base alle quali appunto si prevede che ci sia una presenza di donne, se non addirittura paritaria, ma quantomeno in una certa percentuale di rappresentanti donne nei parlamenti locali o nazionali. La Campbell in realtà argomenta questo tipo di approccio, perché dice: non è solo una questione di avere una quota semplice, anche se questo può essere utile per, scrive lei, per assicurare che le donne comincino ad avere un ruolo visibile, un ruolo alla pari con i candidati uomini, però si tratta anche di superare questo approccio e come dire, anche obbligare a presentare candidati e candidate nella stessa identica percentuale, in modo da avere una possibilità di scelta originale esattamente uguale, e poi naturalmente gli elettori possono scegliere, possono indirizzarsi verso l'una o l'altra l'un candidato o l'altra. Naturalmente questo poi funziona man mano che le cose vengono che la parità tra i sessi è via via più compiuta. Conclude questa lunga rassegna di articoli di Newsweek una intervista al ministro francese delle finanze, che è una signora, Christine Lagarde, che ha anche la particolarità di essere la prima e per ora unica donna che guida l'economia di un paese dei grandi 8 paesi, del G8 cosiddetto. Risponde infatti a questa prima domanda: come si sente essere l'unica donna? Dice: beh, qualcuno doveva essere il primo, dice candidamente, tranquillamente, la signora Lagarde. E tra l'altro dice: comunque le cose stanno cambiando, perché quando ho preso l'incarico ero anche l'unica donna ministro delle finanze nei 27 paesi europei, adesso siamo già in 3 e quindi spero che presto ce ne siano delle altre. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Abbiamo parlato nella prima parte di donne, del ruolo delle donne in politica, di quote rosa, ma anche di mestieri magari non istintivamente considerati femminili, come quello della giocatrice di poker. Parliamo adesso invece di tutt'altro argomento. Parliamo di musica innanzitutto, perché proprio oggi il Sole 24 Ore presenta una iniziativa molto particolare, molto importante, un cofanetto che è in vendita appunto con il nostro quotidiano, che contiene il concerto di Ludovico Einaudi a Praga, tenuto a Praga nel novembre del 2009. E il cofanetto lo trovate appunto con il Sole 24 Ore in edicola. Ma di questa iniziativa si è occupato tra l'altro anche Nova 24, che come sapete è il supplemento dedicato alla cultura digitale che il Sole 24 Ore presenta tutti i giovedì. Il digitale, la tecnologia e quant'altro sta cambiando la nostra vita, un colloquio proprio con Ludovico Einaudi realizzato dal collega Marco Magrini, e spiega tra l'altro Einaudi tutto il suo rapporto con gli strumenti tecnologici più avanzati oggi per produrre ed ascoltare musica. Dice: sono molti anni, spiega Einaudi, che uso il computer per comporre. Lui è un pianista come strumento preferito, e più tardi, dice, con il progresso della tecnologia personale, sempre il racconto di Einaudi, ho iniziato a usare il microprocessore anche per registrare. Così è la segnalazione di Magrini. Di analogico è rimasto solo il suo pianoforte Steinway & Sons per gli appassionati. Al giorno d'oggi, continua sempre Magrini, c'è anche chi si produce i dischi a casa, ma Einaudi registra ancora in studio. Tuttavia, precisa lo stesso compositore, una volta fatta l'incisione mi porto i file a casa, dove posso fare l'editing dei brani con tutta la calma necessaria. Naturalmente non poteva mancare in una chiacchierata con un compositore digitale o dell'epoca digitale un passaggio dedicato alla facilità con cui proprio in questa epoca si possono copiare i file musicali e diffonderli, anche per così dire bypassando gli obblighi del diritto d'autore. E la risposta di Einaudi è interessante. Dice: se fossi vissuto musicalmente negli anni 60, le vendite dei miei album sarebbero state più alte e quindi avrei guadagnato di più. Ora, se da un lato trovo giusto e democratico che si possa andare, che so, su YouTube e ascoltare tutta la musica del mondo, io spero ancora che un giorno, è l'auspicio di Einaudi, troveremo una via di mezzo. Ma è anche vero che così la tua musica è più conosciuta e magari poi c'è più gente ad assistere ai tuoi concerti. Quindi un po' tutte gli effetti e le sfumature di questi cambiamenti analizzati dal compositore, di cui proprio oggi, ripeto, cominciamo a presentare in edicola un cofanetto con il suo concerto tenuto a Praga nel novembre scorso. Naturalmente un passaggio di pianoforte era l'ideale per salutare in qualche modo Ludovico Einaudi. Noi cambiamo paese, cambiamo anche arte, perché adesso ci occupiamo di cinema. Su Nouvel Observateur questa settimana una riflessione, una lunga riflessione di François Forestier, che svolge alcune considerazioni sulla rapidità con cui il cinema hollywoodiano e il cinema americano in generale ha saputo raccontare, mettersi a raccontare la guerra in in Iraq, trovando un parallelo tra appunto la guerra in Iraq e la guerra nel Vietnam, che è stato anche un altro grande tema che ha caratterizzato la produzione cinematografica degli Stati Uniti. Dice Forestier, scrive Forestier, meglio, il cinema americano una volta di più ha mostrato la sua rapidità di reazione e anche la sua libertà nel riesaminare la storia contemporanea, la sua plasticità. Gli americani hanno ormai messo in fila 30 o 40 film che parlano dell'Iraq. Naturalmente tutti ricordiamo quello appena premiato con l'Oscar, che in francese si chiama però Des Mineurs, cioè sminatori, invece in italiano, come sapete, è stato lasciato il titolo originale. Il film di Catherine Bigelow, uno dei rari film apolitici, dice tra l'altro lo stesso Forestier, è un film che, come ha detto la stessa regista, ha un solo soggetto, il fatto di dimostrare che la guerra è una droga. Però ci sono anche film come Green Zone, che sono magari invece grosse produzioni e non sono, come dire, necessariamente apolitici. La guerra in Vietnam, e qui si viene al parallelo e anche alle differenze tra i due temi, la guerra in Vietnam, scrive ancora Forestier, ha impiegato anni per arrivare alle sale cinematografiche, agli schermi, perché le truppe americane si erano ritirate nel 72 e il primo film è di Rice, I Guerrieri dell'Inferno, del 1978, di lì a poco anche Apocalypse Now di Coppola, e quel che è forse il più noto di tutti i film che si sono girati su questo argomento. Il film invece sull'Iraq, come appunto abbiamo detto, sono quasi in presa diretta, cioè in pochissimo tempo il cinema appunto americano è riuscito a riraccontare, a rimettere sullo schermo cinematografico le sensazioni, gli orrori, anche gli errori della guerra, e a creare un dibattito proprio su questa presenza in Iraq. Ma visto che stiamo parlando di cinema, abbiamo parlato di Bigelow, allora parliamo di suo marito, perché suo marito è stato intervistato da Vanity Fair. Vanity Fair presenta una intervista questa settimana a James Cameron, autore di Avatar naturalmente, e poi, come dire, ha conosciuto anche un momento di notorietà, non solo per essere stato il regista di Avatar, ma perché ha in qualche modo perso l'Oscar in favore della sua ex moglie, tra l'altro, e quindi questo ha caratterizzato un po' la notte degli Oscar di quest'anno. La cosa curiosa, l'intervista è molto lunga, non abbiamo davvero modo di riproporla tutta, ci sono anche delle indicazioni che saranno sicuramente gradite a chi ha visto Avatar, ma anche a chi ha visto gli altri film, ad esempio Titanic, tanto per dirne uno di Cameron. La cosa curiosa che però vi voglio segnalare è la reazione che ha avuto il regista sulla prima volta che ha visto l'intero film, quindi che gli è stato proiettato Avatar. La risposta alla domanda "mi racconta cosa ha pensato la prima volta che ha visto l'intero film", Cameron risponde "ho pianto", e dice "beh, è la reazione di buona parte del pubblico", risponde l'intervistatore. "No, io ho pianto perché il film non mi piaceva", è la controrisposta di Cameron. "Ma sta scherzando, per niente, io alla fine della prima proiezione l'ho trovato orribile, allora l'ho riguardato e riguardato 4 volte, stessa reazione, non era quello che volevo fosse. Allora sono tornato in sala di montaggio, ogni volta pensavo di aver raggiunto il risultato che cercavo e ogni volta dopo aver visto la versione corretta restavo di nuovo deluso. Non provavo quello che avrei voluto provare, non mi emoziona", dicevo ai miei collaboratori. Quindi è una vera e propria crisi di rigetto nei confronti di questo film, che invece ha avuto una fortuna enorme poi nelle sale. Chissà che angoscia, gli chiedono. "Beh, soprattutto mi angosciava un dubbio, non provavo niente perché in qualche modo ci ero già abituato, o davvero la mia storia non funzionava. Alla fine, dopo la 5ª modifica, il miracolo, ho cominciato a sentirlo", e quindi da lì in poi, insomma, il rapporto di Cameron con il suo film è mutato. Devo dire che tutto questo tipo di reazioni nel pubblico, un po' in tutto il mondo, non c'è stata, anzi c'è stata un'accoglienza assolutamente favorevole alla sua opera. E allora, visto che abbiamo parlato di cinema, parliamo un poco anche di musica, perché sempre su Vanity Fair ci danno notizia che sta per tornare in Italia, ma questa volta in italiano, il musical Mamma Mia, il musical costruito sulle canzoni degli ABBA. Ora, i più giovani magari fanno fatica a inquadrare chi sono stati gli ABBA, ma gli ABBA erano quattro ragazzi svedesi che sono diventati famosissimi in tutto il mondo. Il nome ABBA derivava proprio dalla unione dei loro quattro nomi. Erano due ragazze che si chiamavano con la due nomi che cominciavano con la A e due ragazzi all'epoca che si invece chiamavano con due nomi che iniziavano con la B. Cosa ha fatto Vanity Fair? È andata a cercare Benny Anderson, uno dei due ragazzi, appunto, e Björn Ulvaeus, che sono i due ex ABBA, appunto, le due B degli ABBA. Le due A, tra l'altro, ci informa Vanity Fair, sono praticamente sparite dalla circolazione tra misteri e rancori. La prima era Agneta, era la ragazza bionda, per chi ricorda gli ABBA, vive attualmente su un'isola sperduta, non meglio precisata. La seconda, Annie Fried, che era quella mora, sempre per coloro che hanno visto gli ABBA, è invece isolata in Svizzera. I due uomini però continuano a macinare successi e denari, sono entrati da poche settimane nella Rock and Roll Hall of Fame e, tra l'altro, la cosa curiosa di questa di questo servizio su Vanity Fair è che sono state realizzate due interviste distinte, perché i due signori hanno voluto realizzare proprio due incontri separati, probabilmente, scrive Vanity Fair, per allontanare qualsiasi sospetto su una possibile riunione dello storico gruppo. Questo argomento è assolutamente tabù, non ci sarà un ritorno degli ABBA, ci sarà invece il loro musical. Con questa segnalazione abbiamo concluso il tempo a nostra disposizione, io vi saluto, vi ricordo che questa puntata può essere riascoltata, come tutti i programmi di Radio 24, sul nostro sito www.radio24.it. Ringrazio Filippo Aureggi questa mattina in regia, nonché Margherita Aina e Vittorio Mussini che mi hanno aiutato a preparare questo programma. Buona domenica a tutti.